GR24, il sole 24 ore. Riforme, il Senato approva l'elezione diretta del capo dello Stato. Borse ancora incerte oggi in Grecia, arrivano gli osservatori di Fondo Monetario, UE e BCE. La protesta dei sindaci contro i tagli alla spesa pubblica. Il ministro Profumo assicura la riapertura delle scuole non è a rischio. La proposta della Perugina, ti riduci lo stipendio e assumiamo tuo figlio. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano l'emendamento del PDL alla riforma costituzionale che prevede l'elezione diretta del capo dello Stato. PD e IDV hanno invece abbandonato i lavori per protesta, mentre UDC, Future Libertà e API hanno votato contro. Intanto il segretario del PDL Angelino Alfano frena sull'ipotesi di un voto anticipato in autunno. Non poniamo termine a questa legislatura, ha detto Alfano. Crediamo che la priorità sia l'economia e pensiamo anche che vi sia la necessità di approvare subito una legge elettorale e di andare al voto la prossima volta con un paese in cui i cittadini possano scegliere il proprio deputato e il proprio senatore. Torneremo fra poco sulla pagina politica, ora invece uno sguardo ai mercati in un'altra giornata un po' difficiline. Allora siamo in diretta con Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Allora, diciamo che questa mattina le borse europee tentavano di rimbalzare dopo il venerdì e lunedì nero, ma il rimbalzo è presto fallito. Peraltro in avvio di seduta c'era già la notizia negativa della giornata con Moody's che in qualche maniera ci verrebbe anche da dire finalmente ha deciso di intervenire anche su Germania e sugli altri paesi dai conti più forti, Olanda e Lussemburgo per esempio, tagliandone l'outlook. L'agenzia di rating americana ha detto che il peso del mantenimento dell'eurozona ricadrà tutto sulle spalle di questi tre paesi, pertanto anche il rating di questi paesi è stato messo sotto osservazione. In ogni caso non sono queste le piazze più colpite dalle vendite. Francoforte sta perdendo lo 0,10%, Parigi è sulla parità, ma di nuovo sotto la pioggia delle vendite ci sono la Spagna e Milano. La Spagna perde il 2%, Milano adesso perde un punto percentuale. A deprimere gli investitori, come nelle attese, per la verità è arrivata anche l'asta di titoli di Stato spagnoli. Il Tesoro iberico ha messo sul mercato 3 miliardi di titoli con scadenza 3 e 6 mesi. I rendimenti sono risultati in rialzo, non sono schizzati verso l'alto, ma sono comunque stati in rialzo rispetto all'ultima asta del mese precedente. Questo è bastato a far di nuovo volare lo spread. Lo spread fra il BTP italiano e quello tedesco è a 522 punti base, per cui nuova difficoltà sui titoli bancari di Milano e anche sui titoli industriali. Il peggior titolo oggi è STM, perde il 6% dopo la pubblicazione dei conti. L'euro sul dollaro è 1,2096. Vedremo che cosa succederà oggi a Wall Street e se il mercato americano darà una mano o meno all'Europa. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E sappiamo, l'abbiamo sentito, quanto pesi sulla situazione di incertezza europea la situazione greca. E proprio oggi ad Atene prende il via la missione della Troica. In diretta il collega del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. Sì, esatto, oggi è arrivata proprio la Troica ad Atene per verificare i conti greci e giovedì il presidente della Commissione europea, José Barroso, incontrerà sempre ad Atene il premier Antonis Samaras per parlare della situazione economica greca. La situazione è abbastanza grave, Atene deve tagliare altri 11 miliardi per il biennio 2013-14 per ottenere a settembre una tranche di 30 miliardi. Ma il premier Samaras proprio oggi ha reso noto che la recessione sarà del 7%, quindi molto di più delle stime, mentre i sindacati sono tornati in piazza contro i tagli ai salari e alle pensioni. La situazione quindi è che il governo greco chiederà probabilmente più tempo per ridurre il deficit, che quest'anno dovrebbe essere al 7%, o di congelare dei pagamenti ai crediti, ma la Germania continua ad opporsi a nuove concessioni e così aumentano sempre di più le tensioni. Grazie, grazie a Vittorio Darold. Torniamo invece in Italia. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sul decreto legge sviluppo, insolitamente veloci i tempi. La fiducia è stata posta appena iniziata la seduta, senza lasciare spazio agli interventi per illustrare gli emendamenti. E per Italia la spesa pubblica, questa mattina a Roma la protesta dei sindaci. Ci racconta tutto in diretta il nostro Andrea Viali. Sì, buongiorno. Con le fasce tricolore e i gonfaloni dei loro comuni sono decine i sindaci arrivati stamattina da tutta Italia a Roma, dove a due passi dal Senato è andata in scena la loro protesta contro la spending review e contro i tagli previsti dal provvedimento che per gli enti che metteranno in crisi i bilanci dei comuni e i servizi ai cittadini. Avvertono i sindaci che chiedono anche di allentare i vincoli del patto di stabilità interno, ma sentiamo cosa ha detto il presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, Graziano Del Rio. I sindaci sono pronti a fare la loro parte per il risanamento del paese, si facciano le scelte giuste però, non si può usare un metodo sbagliato che porterà in crisi i bilanci e i servizi, porterà in crisi le comunità locali. Questo lo diciamo con responsabilità al governo, questo è il tempo dell'ascolto e della decisione insieme. Insieme possiamo uscire da questa crisi, così invece si manderà in crisi il presidio vero delle istituzioni repubblicane. Cioè i comuni. Questa è la posizione dell'ANCI, una cui delegazione oggi sarà ricevuta dal presidente del Senato Schifani, e questo mentre intanto con una nota stamattina il ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda ha smentito le voci riportate da alcuni quotidiani di contrasti nel governo proprio sulla gestione dei tagli della spending review. Per ora è tutto. Grazie al nostro Andrea Viali. E intanto, proprio a proposito dei tagli, il ministro dell'Istruzione Francesco Profumo si è detto convinto che l'anno scolastico non è a rischio. Ieri a lanciare l'allarme il presidente dell'Unione delle Province Giuseppe Castiglione. E questa mattina l'atteso faccia a faccia fra il presidente del Consiglio Mario Monti e il presidente della Regione Sicilia Raffaele Lombardo. In diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Puntuale alle 12 il governatore della Regione Sicilia Lombardo ha varcato il portone di Palazzo Chigi. Un incontro questo con il presidente del Consiglio Monti per chiarire l'effettiva situazione economica dell'isola. Rientrato parzialmente, infatti, il rischio default resta. Comunque lo squilibrio sul fronte della liquidità, aspetto questo che preoccupa maggiormente l'esecutivo, gli addetti ai lavori, lo stesso Lombardo che rivendica 1 miliardo dallo Stato, cifra che secondo il governatore darebbe nuovo ossigeno alle casse siciliane. All'esito del vertice di Palazzo Chigi è legato a stretto filo anche il testo di legge sulla spending review, composto da 62 norme, tra cui il taglio di circa 2.500 dipendenti della regione attraverso il prepensionamento, oltre a riduzione di società pubbliche, canoni di locazione, buoni pasto. Da più parti intanto si chiede a Lombardo di fare un passo indietro, così come sotto accusa è anche l'autonomia stessa di regione a statuto speciale della Sicilia, aspetto questo da cui discenderebbero certe anomalie di spesa. Quanto alle sue dimissioni, Lombardo chiarisce: ribadirò a Monti la mia volontà di lasciare la presidenza perché si possa andare così al voto anticipato. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Ed è di nuovo in Sicilia il ministro dell'Interno Cancellieri, di nuovo a Racalmuto, il paese di Sciascia. In diretta da Racalmuto il collega del Sole 24 Ore, Nino Amadore. Sì, buongiorno a tutti. Il ministro Cancellieri con il ministro Ornaghi e il sottosegretario Rossidori in questo momento sono al teatro di Racalmuto per l'inaugurazione, per la riapertura di questo teatro. Il comune è commissariato per le infiltrazioni mafiose, era già venuta qui su invito di Confindustria di un gruppo di ragazzi racalmutesi, il gruppo di ragazzi che si riconosce attorno al giornale Malgrado Tutto, di cui anche Sciascia era stato grande animatore. Stamattina è stato firmato un accordo, e l'accordo prevede lo stanziamento di 1.200.000 euro per attività di formazione nelle scuole, la costruzione di una piscina, il restauro anche del teatro e soprattutto formazione culturale per i ragazzi. I ragazzi che erano numerosi alla presentazione, alla firma del protocollo a cui si è rivolta il ministro Cancellieri, ha detto: Racalmuto ce la può fare, la presenza di questi ragazzi è la nostra speranza, Racalmuto ha grande possibilità e deve sfruttare queste grandi possibilità. In verità il paese è molto freddo, diciamo, rispetto a questo tipo di dibattito sulla legalità, come ha ammesso anche Felice Cavallaro, il collega del Corriere della Sera, che qui è nato e che è uno dei ragazzi di Malgrado Tutto. Presente anche Antonello Montante, il presidente Confindustria Sicilia delegato alla legalità, che di questo cambiamento, di questo impegno è stato in qualche modo motore, e lui ha detto che bisogna puntare sulla cultura, puntare su modelli positivi, certo, e fare in modo che si possa rompere con la cultura dell'illegalità e con la mafia. Grazie, grazie a Nino Amadore da Racalmuto. E andiamo invece all'estero. L'attuale ministro per l'irrigazione egiziano Hisham Kandil è stato incaricato dal presidente Mohamed Morsi di formare il nuovo governo. In Gran Bretagna, per lo scandalo intercettazioni, Rebecca Brooks e Andy Carlson saranno incriminati, lo ha annunciato il procuratore della Corona. Carlson, ex portavoce di David Cameron al Partito Conservatore a Downing Street, è già sotto processo in Scozia per falsa testimonianza, mentre Rebecca Brooks, ex amministratore delegato di News International, deve già rispondere con il marito di ostruzione della giustizia. Le accuse riguardano azioni commesse mentre erano al timone del giornale News of the World, ormai chiuso. Torniamo in Italia per parlare di un'iniziativa singolare per aiutare l'occupazione giovanile. Meno lavoro per i padri e un lavoro per i figli. È la proposta avanzata da Nestlé per lo stabilimento Perugina di San Sisto, nel capoluogo umbro. L'azienda vuole offrire ai lavoratori che volontariamente accetteranno di ridurre l'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali la possibilità dell'assunzione di un figlio. Ma il fatto che Nestlé non abbia ancora chiarito se si tratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato non piace ai sindacati. Il segretario nazionale Fly CGL, Mauro Macchiesi, al microfono di Valentino. Furlanetto. Il problema non è di dividere il lavoro, ma è innanzitutto di discutere come rilanciare la produzione su quel sito con innovazione di prodotti, con nuove realtà da mettere in produzione, cosa che il gruppo Nestlé in Italia da un po' d'anni a questa parte non fa più. Tra le altre cose non si capisce perché un genitore che con questa procedura non arriva alla pensione e che con lo stipendio non arriva alla famosa quarta settimana dovrebbe dividerla con il figlio. Ma in una situazione in cui il lavoro scarseggia un po' per tutti e di difficoltà per le aziende, non potrebbe essere un modo per trovare lavoro a dei giovani? Il problema non è che la riduzione dei volumi sul sito di Perugia è dovuto alla crisi, in gran parte è dovuto alla mancanza di investimenti e di rilancio produttivo di quel sito. Batman record al box office americano dopo la strage nel cinema di Aurora in Colorado. Il film Il Cavaliere Oscuro, il ritorno, ha incassato nel primo fine settimana nelle sale americane oltre 160 milioni di dollari. La notizia è di quelle che lascia un po' così. Il nuovo film Batman, proprio quello che veniva proiettato nel cinema di Denver quando tre giorni fa James Holmes faceva una strage vestito da Joker, ha messo a segno un record nel box office americano, con incassi nel primo weekend di oltre 160 milioni di dollari. Direte, non è il caso di scandalizzarsi, il film era atteso da mesi e Batman è uno dei personaggi più popolari negli Stati Uniti. Poi si sa, gli americani nel bene e nel male sono fatti così e reagiscono subito, non si fermano, vanno avanti, la loro storia è così. Però, senza dare lezioni a nessuno, tantomeno noi italiani che poi facciamo di peggio, diciamo la verità. Di vedere quel film, magari con i nostri figli, tanta voglia proprio non ci viene. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci in regia Filippo Aureggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.